Buffice aria. Oggi ho il sole tra le mani, porto in superficie l'aria tra la la. Non ho amici ma bianchi pellicani, hanno molto tempo e parlano con me sotto l'acqua. Si respira di superficie anche un po' di me. Pipistrelli che volano tra i banani, e al tramonto ripassano, ripassano, ripassano, ripassano. Io ti aspetto tremando le parole, perché in mano brilla il sole. Vai più piano, arriva anche domani, perché ho il sole tra le mani, sole tra le mani. Oggi ho il sole tra le mani, porto in superficie l'aria tra la la. Quadrifogli dagli occhi quasi umani, hanno molto tempo e parlano con me sotto l'acqua. Il mondo gira, pinguini hanno un'aria senza età, sui tasti neri riposano i pensieri, e al tramonto si svegliano, si svegliano, si svegliano, si svegliano. Io ti aspetto fumando le parole, perché in mano brilla il sole. Vai più piano, arriva anche domani, perché ho il sole tra le mani, sole tra le mani, sole tra le mani, forbice aria, sole tra le mani, forbice aria, sole tra le mani, forbice aria, sole tra le mani, forbice aria. Piano, arriva anche domani, perché ho il sole tra le mani, sole tra le mani.